l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, in diretta dagli studi di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale dove vi raccontiamo storie, facciamo riflessioni sull'Europa, un'Europa che questa settimana ha vissuto una vicende intense, forti scontri, forti incontri, forti riflessioni, partendo dal problema dei Rom e dalla scelta di Sarkozy di fare queste espulsioni, i diritti civili quindi al centro del confronto e anche questa è l'Europa unita. Abbiamo denunciato l'esigenza in questo programma più volte, per esempio sui Rom, di avere una voce comune. Questa voce comune è difficile da raggiungere, è difficile da trovare, però crediamo che fare l'Europa unita, fare una nuova cultura europea sia anche questo. E se ne parla dei Rom, se ne parla sul sito euronet.eu, questo network di radio europee, lo stesso argomento trattato da più voci, e questa settimana hanno lanciato un'altra domanda che prendiamo spunto per iniziare la puntata di oggi, anche per accendere i vostri pensieri. L'Europa unita è leader o follower? Può essere cioè un punto di riferimento a livello mondiale o invece niente, è sempre al traino di altre potenze, gli Stati Uniti, l'Asia, la Cina? Insomma, aspettiamo i vostri pensieri al 349-238-6666, dal sito di Radio 24 si arriva al sito di Euronet, dove questi pensieri vengono tradotti in più lingue, e noi abbiamo scelto di trattare questo argomento da un punto di vista particolare, forse ristretto, ma lo sapete, ci piace darvi anche pensieri divergenti. E parliamo di arte, e quindi vogliamo capire se dal punto di vista dello spettacolo o dell'arte in generale l'Europa è leader o follower. Abbiamo scelto un artista che è nato a Torino, ha vissuto a Parigi ed è uno degli artisti italiani più famosi al mondo. Arturo Bracchetti, presentato in tantissime lingue, questo è quello che succede nei suoi spettacoli, perché il suo nome è conosciutissimo dagli Stati Uniti al Giappone. Ed Arturo Bracchetti è qua con noi. Ciao Arturo, buon sabato. Buongiorno. Good morning everybody. Contento così. Contentissimo. Tra l'altro, Arturo, abbiamo iniziato la nostra riflessione partendo dai Rom per arrivare a chiederci se l'Europa è leader. E tu proprio domani sera, lunedì sera, 20 settembre, avrai uno spettacolo qui a Milano, e con te ci sarà Rebecca Covaccio, questa ragazzina rom che abbiamo ospitato qualche settimana fa e che già è salita sul palco con te. È una scelta forte la tua. Beh, innanzitutto ti devo dire che nei giorni liberi che ho, pochi all'anno, vado anche a fare delle cose come il volontariato. Quest'anno sono stato una settimana in Serbia proprio dai Rom, presso un'associazione che si preoccupa di fornire una scuola a questi ragazzi Rom, per toglierli dalle strade e soprattutto dargli la possibilità lavorativa che non sia quella solita che succede nei paesi dell'est, di guadagnare 100 euro al mese con il rischio di perdere una mano sotto una pressa ogni 20 secondi. Ecco. Certo. E quindi io conosco un pochino la situazione dei Rom, proprio perché essendo una settimana lì ho parlato con molta gente e ho vissuto i problemi da vicino. E poi mi è capitata l'occasione di creare questo Pierino il lupo che va in scena lunedì sera al Teatro Smeraldo di Milano, e che ho già fatto con la Rai di Torino, e mi sono detto: ma in questa favola di Prokofiev, dove alla fine il lupo viene preso, imprigionato in una gabbia, in uno zoo, solo perché è un lupo, cioè rispetto alla sua natura va in giro a mangiare le anatre che scorrazzano in giro per i prati, perché metterlo in gabbia? E poi mi sono detto, ma chi è il lupo al giorno d'oggi? È lo sconosciuto, secondo me, che vive nelle periferie metropolitane, visto che la foresta non c'è più, e questo lupo va in giro per fame a creare ovviamente scompigli, ma dettato da un bisogno che è purtroppo tremendo e naturale, che è la fame. Mm-hmm. E quindi forse il lupo è lo sconosciuto extracomunitario, vedi sì, insomma lo straniero, comunque chi ha bisogno, questa, ecco, è un po' chi ha bisogno. Io mi sono imbattuto nella realtà di Rebecca o di altra gente che è stata per esempio in Italia ha vissuto dei momenti drammatici, e lei è una bravissima disegnatrice, quindi ho dato in fondo una possibilità a una voce da lupo, da piccolo lupo, di poter disegnare, cioè lavorare in uno spettacolo, e quindi tutto quadra secondo me. Lo zoo alla fine non lo mettiamo, lo zoo, il lupo lo c'è dietro le sbarre, lo mettiamo in una riserva naturale, perché non si mettono più gli animali dietro le sbarre. Allora, Arturo Bracchetti, Pierino e il lupo, il 20 settembre, tra l'altro sì. Do adesso il sito, che è www.bracchetti.com, per conoscere anche gli appuntamenti, guarda, le prossime biglietti, date, quindi non devi tare resse. Okay. Lo diciamo così. In Europa certo la situazione di Roma è un po' parallela dappertutto, e tutti gli stati hanno questo stesso problema, è molto complesso, non è veramente, e poi soprattutto noi sappiamo sempre le notizie brutte da quel 10% dei Rom che vivono situazioni aggressive nei nostri confronti. Certo. Perché io mi sono trovato in Canada o in America e mi dico: ah, italiano, mafia, e dico, mica viviamo nella mafia in Italia, no? Mm-hmm. Però c'è questa nomea di mafia che dopo 50-100 anni gira ancora per il mondo. Italiano uguale mafia, no? Sì, insomma, infatti, uguale l'altro, certo. L'altra Europa. Una riflessione comune fatta da tante radio, da tante voci europee: l'Europa, l'Unione Europea è follower o è leader, insegue oppure fa tendenza, può essere un motore trainante. Ne stiamo parlando da un punto di vista particolare, quello dello spettacolo, quello dell'arte. Lo facciamo con Arturo Bracchetti, che ha esperienza internazionale. Arturo, per te, quando guardi il resto del mondo da italiano e o da europeo, sei sempre alla ricerca di nuovi stimoli, sei sempre alla ricerca di qualcosa da imparare, o l'Europa può essere maestra anche in questo campo, secondo te? L'Europa è maestra in questo campo, solo che poveretta non investe mai, e quindi tutti i nostri talenti, italiani, francesi, inglesi, spesso vanno all'estero. Calcola che per esempio il Cirque du Soleil, che è un'entità canadese, ormai mondiale, seconda solamente alla Disney, mi diceva: vabbè, è canadese, cosa c'entra? Ma è canadese del Quebec. Il Quebec è uno stato che non guarda gli Stati Uniti, ma guarda la Francia. Tu vai in Quebec, c'è il teatro statale finanziato appunto dalla nazione, che mette in scena cose francesi, e se tu sei italiano, sei italiano, fantastico, sanno tutto dell'Italia, conoscono Fellini, quindi lo Stato del Quebec, molto stimolato, ripeto, dall'Europa, crea il Cirque du Soleil. Mm-hmm. Che è ormai, come dire, un simbolo dello show business mondiale, creativo, eccetera, eccetera, che poi sbarca a Las Vegas, a Macao, in tutto il mondo. Poi tutte le commedie musicali inglesi, le ultime, le più famose e le più grosse di successo, quali Mamma Mia o anche Billy Elliot, sono nate a Londra. E quindi in Francia produce un po' di meno, produce però molti film. La Germania produce magari più arte visiva e contemporanea, quindi l'Europa, come al solito, crea, poi arrivano gli americani, prendono i soldi e la portano, la esportano, la realizzano. Cioè in Italia mancano spesso delle entità produttive per espletare i talenti che abbiamo da noi, perché noi abbiamo comunque la culla della civiltà, stiamo sempre seduti sopra delle pietre che hanno mille anni, non ce ne accorgiamo mai. Mm-hmm. I nostri bambini per le strade, nei paesi, giocano a pallone davanti a una chiesa del 600. Allora, inevitabilmente, questa cultura che gli sta dietro entra nella loro testolina, viene respirata quotidianamente. Certo, solo che non ce ne accorgiamo, dici: ma figurati. Invece poi dopo spessissimo i talenti nostri prendono e partono, e all'estero, se tu leggi, anche lì, ripeto, il Cirque du Soleil, il primo regista che fece i primi 10 spettacoli si chiama Franco Dragone, uno degli ultimi, Finzi Pasqua, che è un italiano. Altri registi che io conosco, internazionali, grandi registi, hanno casa in Italia. Mm-hmm. Questo sto parlando solo dell'Italia, ma poi c'è la Francia, la Spagna, eccetera. Proprio da noi c'è un grande fermento che poi viene Viene perso, insomma, viene regalato, esatto, viene regalato tra virgolette ad altri, ma purtroppo sì. Arturo, invece, una tua sensazione, tu viaggi il mondo, veramente con i tuoi spettacoli, credo tu abbia toccato qualsiasi nazione, vieni sempre visto come l'italiano o anche come l'europeo, o queste cose si confondono, nel senso, questa cultura europea, di Europa unita, si riesce ad esportare, o per un cinese o per un sudamericano? Perché finché sto in un paese molto informato, quale il Giappone, per esempio, che è lontano, per dicono italiano, e ti dicono i nomi della moda, ti dicono i giocatori del football, cioè ti dicono le cose giuste. Sono stato in Cina e lì ho avuto uno shock, perché dico, ma vengo da Torino, fa Torino, Torino vicino a Parigi, no, Torino in Italia, lontano da Parigi, che poi lontano per loro non è lontano, lasciamo perdere. Sì. E quindi in Cina sì, facevano veramente dell'Europa tutto un fascio. Dice, vengo anch'io a visitare l'Europa, se c'è una settimana vengo, perché in Europa in una settimana vedi niente. Sì, perché c'è la Parigi, Londra, Berlino, Roma, Venezia, Madrid. E i cinesi, anche di una certa cultura, allora, ecco, io, lì in Cina ho avuto la sensazione che il mondo europeo, l'Europa stava veramente su un altro pianeta. Mm-hmm, insomma, quindi insomma, un processo anche di esportazione, no? di questa nuova cultura. Poi c'è l'America che è ignorante completamente, lasciamo perdere. Quindi, cioè, perché sì, l'America, noi diciamo America è New York, Los Angeles, punto. Tutti gli esseri un pochino intelligenti e svegli dell'America, degli Stati Uniti, pardon, si radunano poi alla fine a New York e a Los Angeles, in mezzo il vuoto proprio, sai, va a Houston, Texas, dove ti dicono, almeno qualche anno fa dicevano, ma avete già i telefonini in Italia? Quindi insomma, no, questo vuol dire che comunque l'Europa Unita ha un potenziale enorme proprio per diventare leader, che è quello di cui stiamo parlando oggi. Grazie davvero Arturo, allora ricordiamo la tua nuova tournée in Italia, vero? Partirai con questa tournée dei piccoli teatri, se ho capito bene, che è un po' una... Chuck si gira, uno spettacolo sul cinema che tocca i piccoli teatri in Italia, poi andiamo 2 mesi a Parigi al Folie Bergère. Per non perdere l'abitudine, giusto? Certo, perché tra l'altro sta andando anche molto bene come prevendita, e poi ritorniamo in Italia sempre con questo Jack si gira nelle città più piccole, che poi vuol dire Reggio Emilia, Ascoli, Cagliari, insomma cittadine belle grosse. Certo. Proprio perché l'ho trascurata negli ultimi 5-6 anni e abbiamo molta richiesta. Brachetti.com il sito per tutte le informazioni. Ciao Arturo, grazie per averci portato la tua esperienza. Viva ciao l'Europa che c'ha il cuore. Che bello, buon sabato, ciao. Europost-it. Un'Europa tutta da ridere. Al centro Vallonia-Bruxelles di Parigi è in corso un'insolita mostra sull'Europa. Attraverso la matita dei più sferzanti caricaturisti europei, l'Europa viene descritta e illustrata per mezzo dei fumetti. Così anche i temi seri, partendo dalle origini dell'Unione fino alla recente crisi greca, diventano più fruibili perché narrati attraverso la colorata ironia del fumetto. È tutta colpa di Bruxelles. Questo il titolo della mostra in corso al Centro Vallonia-Bruxelles di Parigi, che resterà aperta fino al 6 ottobre. Per informazioni, cwb.fr. Questo è l'inno alla gioia, l'inno scelto dalla comunità europea, perché continuiamo a parlare di Europa, di unione, di un'unione a volte, insomma, che pare che sia in crisi, che non ci sia una voglia, una tendenza di fare questa nuova cultura europea, e paradossalmente il Belgio, che ospita Bruxelles, che quindi insomma la sede anche di questa comunità europea, il Belgio non riescono a trovare un accordo lì dove si parla di unione perché c'è Bruxelles, il Belgio invece sta perdendo questa sua unità. È un periodo storico complicato quello della nazione belga, e ne parliamo con una giornalista della radio televisione belga, nostra amica. Diamo il benvenuto a Isabelle Palmitessa. Ciao Isabelle. Ciao Federico. Ciao, come buon stai? Sabato. Molto bene, tu? Bene, benissimo. Abbiamo festeggiato ieri sera, perché qui in Belgio, specialmente in Vallonia, festeggiamo questo weekend le feste di Vallonia. Ah, che tradizione è? Che origine hanno? Hanno un'origine di tradizione vecchia, ma adesso è un po' la festa anche politica della Vallonia, perché fa esattamente 30 anni che esista la regione, politicamente parlando, voglio dire. Certo. Parliamo di Europa Unita, ma parliamo di questi fiamminghi e valloni invece che sono sempre più distanti. Cosa sta accadendo in Belgio, Isabelle? Ma adesso, per dire la verità, siamo nella delusione, si dice così in Italia? Si dice così, si rende benissimo l'idea. Ecco, perché quando ci siamo parlati a giugno c'era una speranza di trovare un modo di vivere insieme, con tanta speranza su quello che poteva uscire dai negoziati fra i socialisti e i fiamminghi della nuova alleanza fiamminga. Dunque voglio parlare di Elio Di Rupo, presidente del Partito Socialista, e dall'altro lato di Bart De Wever. Invece hanno parlato tutto l'estate, non hanno preso vacanze, ma non è uscito niente. A settembre Elio Di Rupo ha gettato la spugna e ha detto al re: io no, non posso più, è impossibile. E dunque il re ha detto: beh, va bene, cerchiamo di andare avanti. Ha chiesto ai presidenti del Parlamento, presidente del Senato, presidente della Camera, di fare una mediazione, diciamo, ma per adesso non esce niente. E per dire la verità, le persone nei bar o a casa o sul lavoro non ne parlano più. Nel senso che ormai sono assuefatti, ma qual è il desiderio vero? Esiste un desiderio vero della gente che è al bar, del popolo? Ma non si sa, stanno parlando di un referendum. La legge belga non ha previsto di organizzare un referendum, è impossibile, ma si dice che per causa di impossibilità di trovare un accordo, può darsi che sarebbe possibile organizzarlo, ma con cosa possono chiedere ai cittadini? Volete vivere in Belgio, in questo Belgio, in un Belgio diverso? Non so, è la domanda che è difficile trovare. Già. Insomma, è difficile trovare una risposta, è difficile, ancora più difficile trovare una domanda, come ci stai spiegando, ecco. Tu. Cittadini rassegnati, cittadini forse anche un po' stanchi, perché magari, sì, è vero, è un problema culturale quello dell'unità di una nazione, ma ci sono anche tanti altri problemi che magari vengono poi nascosti o dimenticati. E in tutto ciò Bruxelles come viene visto? C'è un Belgio diviso e poi si trova questa capitale d'Europa al proprio interno. Sì, è una cosa che le persone all'estero spesso non conoscono, che Bruxelles è la terza regione del Belgio. Cioè, ci sono le Fiandre, la Vallonia e Bruxelles, che ha una struttura politica propria. E i fiamminghi non hanno mai visto da un buon occhio quella cosa, perché per loro Bruxelles è una città fiamminga. Per i valloni all'inverso è una città dove si parla soprattutto francese, dunque piuttosto dovrebbe essere con loro, dunque è un problema, un ulteriore problema che non può avere soluzione, è impossibile. O allora dicono che potrebbe essere una città tipo Washington DC, sì. DC. Dunque indipendente, capitale dell'Europa. Isabelle, tra l'altro abbiamo letto in questi giorni anche di questo architetto francese Christian de Portsenpark, che è stato incaricato di ricreare a Bruxelles un quartiere che esprima la fiducia e la speranza dell'Europa nel suo futuro, nelle sue istituzioni, quartiere che invece non riesce a realizzare, vero? Ma penso che lo farà. Sì. No, è previsto, ma è vero che l'idea di base, come hai detto, è un'idea di un'Europa unita che crede nelle istituzioni, e quella idea ha portato il progetto di Christian de Portsenpark Ma è vero che adesso con tutto quello che sta succedendo e in Belgio e in Europa sembra un po' che non sarebbe veramente lo specchio della realtà. Insomma, questo quartiere lo sta un po' ridisegnando, no? A seconda anche degli equilibri politici, magari allunga una via, accorcia una piazza, e, insomma deve cercare un po' una nuova sistemazione di questo quartiere, però insomma è emblema dell'Europa, noi ci crediamo, prima abbiamo chiuso con le bracchette dicendo viva l'Europa e lo speriamo davvero. Isabel, grazie davvero per la tua testimonianza, come sempre ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Grazie, ciao. A te. Adesso un Europostit e la pubblicità, poi torniamo qua. Europostit. Scuole europee in gara per l'e-learning. Giunto alla sua 10ª edizione, l'e-learning Awards è un concorso europeo che si rivolge alle scuole e agli insegnanti. Nella scorsa edizione erano in gara ben 700 differenti proposte, provenienti da 36 paesi diversi. Vince il concorso chi presenta il miglior progetto legato all'e-learning, cioè all'utilizzo di tecnologie informatiche a fini educativi. In premio ci sono soldi, ma anche attrezzature tecnologiche. Ci sono ancora 10 giorni di tempo per presentare il proprio progetto, fino al 28 settembre. Tutte le informazioni sul sito e-learningawards.eun.org. L'altra Europa. L'altra Europa, @radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se ci volete contattare durante la settimana, vi ricordo radio24.it invece è il sito da cui riascoltare le puntate in podcast. Lì troverete anche il link per il sito di Euronet. Il Corriere di oggi, il Corriere della Sera, intitola Il caso, sono le pagine degli esteri. Basta immigrati, la spallata di Jimmy alla Svezia solidale, leader dell'estrema destra punta al Parlamento. Domani ci saranno le elezioni in Svezia, ci sono due piccoli partiti che sono in attesa di sorprese. Uno è appunto l'estrema destra che punta con questo slogan basta immigrati a superare la soglia del 4%, ma c'è anche un altro partito, il partito dei pirati, di cui abbiamo sentito parlare durante le elezioni europee. E vogliamo parlare di elezioni in Svezia, ma lo facciamo a nostro modo, quindi ci siamo inventati un corrispondente, però un corrispondente molto sveglio questa volta. Lei anche è un'immigrata, è un'italiana, vive a Stoccolma da qualche anno, è neolaureata in Italia ed è in scienze politico, in scienze della comunicazione e indirizzo politico. Diamo il benvenuto a Viola Frifa. Ciao Viola. Ciao Federico, buongiorno e buon sabato a tutti gli ascoltatori. Credo di essermi inventato la tua laurea, in verità in cosa ti sei laureata? È la specialistica di scienze della comunicazione in linguaggi persuasivi, però mi sono laureata, diciamo, con una tesi in comunicazione elettorale. Ok, tu sei di Prato, se non erro, sì. E vivi a Stoccolma per motivi di cuore, possiamo dirlo? Sì, esatto. Perfetto. Di cosa ti occupi lì? Quanti anni hai intanto? Io ho 25 anni, quasi 26 anni. Uh-huh. E niente, qui diciamo mi sono reinventata insegnante di scuola materna. Ah, okay. E diciamo che sto cercando un po' il mio posto nel mondo, però allo stesso tempo sto cercando comunque di coltivare la mia passione, che è quella del giornalismo e della scrittura, e in particolare diciamo nell'ambito politico e della comunicazione politica. Ok, e quindi sei la persona adatta per capire quello che è un po' il polso della situazione lì in Svezia, perché hai un punto di vista particolare, quella dell'immigrata, quella comunque dell'esperta in tematiche politiche e non solo, perché hai alzato il telefono e hai fatto una cosa molto curiosa, vero? Esatto. Dunque, intanto appunto mi fa molto piacere che sia stato diciamo almeno dedicato un articolo sui maggiori giornali italiani a questa situazione, e quindi alle elezioni in Svezia, perché di solito diciamo è un argomento che passa abbastanza in sordina. Comunque niente, appunto io domani 7 milioni di persone che andranno alle urne, in realtà un po' meno, perché alcuni comuni hanno dato la possibilità alle persone di votare in anticipo. Sì. E quindi si scontrano due fazioni, diciamo due schieramenti classici, centrodestra e centrosinistra, quello di centrodestra composto da moderati, liberali, diciamo democristiani e partito del centro, ed è diciamo la formazione politica che è in carica in questo momento. E, il maggiore diciamo gli avversari appunto sono lo schieramento di centro-sinistra formato dai socialdemocratici verdi e dal partito della sinistra, quindi gli ex comunisti. Però appunto, come hai detto bene, ci sono altri due partiti che mirano al 4% e che diciamo è abbastanza plausibile che entrino in Parlamento. Uno appunto è lo Sverige Demokraterna, che è appunto il partito di estrema destra di Jimmy Åkesson, di cui avete parlato prima, di cui hai parlato tu prima, e l'altro partito appunto è il Partito Pirata, che è nato nel 2006 come partito monotematico, sui temi del sì, diciamo della libera circolazione delle informazioni e dei dati su internet, e sulla depenalizzazione della violazione del copyright. Quindi sono nati nel 2006, si sono presentati alle elezioni del 2006, non hanno raggiunto neanche l'1%. Ecco. Dopo 3 anni alle europee invece hanno fatto il botto, perché hanno raggiunto il 7.1%, e addirittura c'è stato un boom di iscrizioni alla sezione giovanile del partito, che era addirittura arrivata a 20.000 membri, ha avuto molto presa soprattutto sui giovani il Partito dei Pirati, che alle elezioni si è presentato così. Remember the way that gone to war. September is when we say no more. Whenever I say this is enough, I want you to stay out of my stuff. Vota i Pirati, un partito a tutti gli effetti, e tu però, cittadina qualunque, hai alzato il telefono perché volevi intervistare il segretario del partito e ti hanno dato udienza. Esatto, no, semplicemente sono andata sul sito del partito, dove c'è l'elenco di tutti i funzionari e dei principali leader, con tanto di indirizzo mail e numero di telefono. Io ho alzato il telefono e li ho chiamati, li ho intervistati, sono stati disponibilissimi, addirittura meno di una settimana prima dalle elezioni, quindi immaginiamo un esempio così rispettivo in Italia, impossibile, soprattutto se chiami a titolo personale come ho fatto io. E niente, sono stati molto disponibili e mi hanno raccontato assolutamente quali sono i loro obiettivi. Tutti, io ho intervistato sia il segretario del partito, che è un ragazzo di 33 anni, quindi insomma giovanissimo, la vicepresidentessa, che dovrebbe avere una quarantina d'anni, e il responsabile per la città di Stoccolma. Loro tutti e tre mi hanno assolutamente garantito che raggiungeranno il 4%. Devo dire la verità. Sì, di pure la verità, certo. Sì, io sento malissimo, sì, però sì, no, vorrei parlarti su. No, no, tranquilla, sei giornalista, quindi mi devi essere obiettiva. Qual è la verità? No, sì, la realtà è che i sondaggi non appaiono neanche. Quindi insomma, loro dicono sì 4%, addirittura il segretario mi ha buttato lì un 6%. Io sono rimasto un po' interdetta, ho detto, però probabilmente nel senso, io non ho intenzione di fare il gioco che fanno i partiti maggiori, cioè quello di sottovalutare se non ignorare, nel senso che comunque il 7.1% l'anno scorso l'hanno fatto, sicuramente non ripeteranno l'impresa, perché non sono le europee ma sono le politiche e le amministrative, quindi insomma è un ma voto poi, insomma, hanno un anche perché hanno un programma molto ristretto, no, che non va molto infatti quello, infatti è una delle domande che ho fatto comunque a queste persone, è stato ok alle europee probabilmente concentrarsi sul copyright e sull'abolizione della censura in internet può essere sufficiente, ma cosa raccontiamo alle persone, cosa raccontate agli elettori che escono dalla crisi, gli elettori disoccupati o gli studenti comunque che vogliono sapere qualcosa sulle riforme della scuola, i pensionati, loro hanno detto noi è evidente che abbiamo ancora bisogno di tempo per crescere e per imparare, però noi cerchiamo di applicare i principi che sono quelli nostri fondativi a tutte le tematiche, a certo. Tutti gli ambiti della politica. Viola, ora, per salutarci vuoi anche descrivere sì. Il loro quartiere generale? Che non esiste. Ecco. Non esiste, infatti io volevo andare a intervistare lì, ma mi hanno detto oh, noi non abbiamo un quartier generale, il nostro quartier generale è la Rete. Sì. E dove aspetteranno? Domenica? Sì, domenica, domani sera aspetteranno i risultati in un pub in periferia di Stoccolma. Hanno affittato tutto il pub, gli è sembrato anche una cosa di lusso, abbiamo addirittura affittato tutto un pub e quindi niente, attenderanno lì i risultati in collegamento con tutti i pirata partiet, tutti i partiti pirata sparsi per l'Europa e per il mondo, anche perché ci sono anche in altri continenti, quindi insomma ok, cose diciamo a basso profilo, però hanno un bel seguito fuori dai confini sicuramente. Viola, grazie davvero per averci dato questo spaccato reale delle elezioni in Svezia che si terranno domani e in bocca al lupo, mi raccomando, non parlare di politica ai bambini del tuo asilo, insomma, la lascia in pace, ok? No, non c'è pericolo, non c'è. Grazie, ciao, buon sabato, ciao. Un euro posti, te le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. Poesia in metropolitana. La prima fu Londra nel 1986, poi fu la volta di altre città europee come Dublino, Barcellona, Stoccolma, Stoccarda. Da qualche anno anche Varsavia ha il suo festival di poesia underground. In metropolitana, sui tram o nelle stazioni, i polacchi trovano poesie di autori contemporanei europei. L'edizione 2010, che si chiuderà il 20 settembre, propone anche numerosi eventi collaterali come laboratori didattici e vere e proprie gare di improvvisazione poetica. L'altra Europa. L'altra Europa, andiamo in Polonia. Abbiamo ascoltato nel precedente Europost che si parlava di questo festival della poesia nella capitale polacca. La cosa ci ha incuriosito perché insomma da queste manifestazioni si imparano a conoscere anche i popoli, anche le nazioni, quindi ci piace andarli a vedere, a toccare con mano, e oggi lo facciamo con Paulina Benze. Ciao Paulina, benvenuta all'altra Europa. Ciao Federico, ti saluto da Varsavia, saluto anche tutti gli ascoltatori della radio di Varsavia. Grazie Paulina, che bel inizio quasi istituzionale. Allora, abbiamo contattato nei giorni scorsi gli organizzatori del festival perché volevamo una polacca, un polacco parlante italiano, ci è stato segnalato il tuo nome, tu non sei tra gli organizzatori di questo festival Poesia in Metropolitana. Purtroppo non ci sono. Festival che però conosci bene, nel senso che sta muovendo la città. Certo, ma io posso dire che faccio parte del festival osservando, sì. Osservandolo e leggendo le poesie in metropolitana di Varsavia. Ecco, perché ce lo puoi spiegare? Come funziona questo festival? Come funziona? È un festival che si svolge adesso per la terza volta. Sì. Di che cosa si tratta? Si tratta di questo, che nella nostra metropolitana di Varsavia vengono messe ogni anno le poesie di diversi poeti europei. E queste poesie sono messe alle fermate, sì. Di diverse stazioni di metropolitana, sui pareti per esempio, ma pure dentro i treni. E sono sempre scritti, sono i brevi poemi, breve poesie scritte sempre nella lingua materna e tradotte anche in polacco. Dunque, la gente che viaggia nella metropolitana ogni giorno può leggere per tutto il settembre le poesie di diversi poeti europei. Questa è una idea bellissima secondo me, perché ci fa vedere che cosa si svolge nella poesia europea, sì? E grazie a questo possiamo conoscere i poeti di diversi paesi europei. Insomma, perché è un bel incrocio, una bella contaminazione, insomma, in metropolitana si ha sempre fretta, però poi ci sono questi spazi di attesa e per così allietare l'attesa si respira l'Europa e si respira l'Europa leggendo queste poesie. Ma se uno fosse un poeta, un giovane poeta anche sconosciuto, può contribuire con queste poesie? Ci sono degli spazi dove tu puoi portare le tue opere o no? Purtroppo no, però questo Festival delle Poesie in Metropolitana consiste anche negli eventi, ci sono anche gli eventi che lo accompagnano. Per esempio, come voi avete già detto, ci sono gli incontri speciali, per esempio le lezioni, ci sono i progetti di educazione per i giovani che scrivono le poesie, che si incontrano con i veri poeti, che possono leggere le loro poesie, per esempio questo. Oppure c'è un concorso speciale, sì, per tutte le persone che scrivono qualcosa, ma è un concorso per scrivere per comporre la poesia haiku. Ah, ok, certo. Questo può essere fatto in tutte le lingue di poeti che fanno parte adesso di questo progetto, perché devo dire che quest'anno in questo festival partecipano 17 paesi europei, cioè Polonia, Norvegia, Svezia, Islanda, Estonia, Romagna, Austria, Danimarca, Portogallo, Olanda, Bulgaria, Slovacchia, Inghilterra, Croazia, Grecia e pure la Russia. Quindi l'Italia no, mi pare di capire. Purtroppo non c'è, l'Italia non c'è. Ecco. Speriamo che forse l'anno prossimo anche l'Italia faccia la parte di questo progetto. Eh sì, insomma, lo speriamo, perché i poeti non mancano di solito. Sì, certo. Sì, però poi magari manca a volte interesse per queste manifestazioni. Paolina, ma come si sta in questo periodo a Varsavia? È una città che tu descriveresti come? È viva? È un bel momento per la capitale polacca? Sì, certamente. Adesso siamo in settembre, abbiamo settembre, Varsavia è una capitale molto viva nel senso culturale, sì. Adesso si svolgono tantissimi eventi, ovviamente abbiamo questo festival di poesia nella metropolitana, però è cominciato ieri anche il festival della settimana musicale. Sì. Per tutta la settimana si svolgeranno i concerti di musica moderna. Verranno gli artisti di tutta l'Europa. Dunque. Non ti chiedo se ci sono italiani per paura della risposta. evito proprio la domanda. Quindi, insomma, c'è fermento culturale, una città giovane con tanti giovani, quindi. Tanto. Insomma, ci piace avere questa immagine. Ma tu come mai che parli così bene l'italiano? Perché prima di tutto io amo l'Italia, la lingua italiana, ho studiato la filologia italiana qui a Varsavia, all'Università di Varsavia, pure a Roma. In generale amo l'Italia e gli italiani, dunque è questo. E tu di cosa ti occupi? Che lavoro fai? Io lavoro adesso all'Istituto di Film Polacco. Sì? E mi occupo della promozione in generale dei film dell'Istituto. Quindi finanziate anche la realizzazione di film polacchi, insomma l'istituto che finanzia anche. Qual è un film polacco che sta piacendo molto in questo periodo lì? C'è qualche novità? C'è qualcosa che ci vuoi consigliare? Sì, certamente. Settembre è sempre il momento dell'anno in cui abbiamo tante prime dei nuovi film polacchi. Certo. Un film che è molto interessante di un giovane regista polacco che si chiama Paweł Sala, il titolo è La madre dei gatti. È una storia basata sui eventi reali, la storia di due ragazzini, due fratelli che uccidono la loro madre. Sì. Dunque la storia è un po' drammatica, però molto interessante, la sceneggiatura è molto interessante, il film è fatto nel modo benissimo. Dunque se avrete la possibilità di vedere questo film in Italia, raccomando. Ok, insomma, un ottimo consiglio. Ma i polacchi amano il proprio cinema o lo snobbano un po'? Cioè c'è più attenzione verso il cinema straniero o piace il cinema di casa propria? Penso che nei recenti anni questo ha cambiato tantissimo, perché adesso abbiamo in Polonia, possiamo osservare la onda di tantissimi nuovi buoni film polacchi. Mm-hmm. Questo è cominciato 4 anni fa, la generazione dei giovani registi polacchi che fanno buonissimi film. Dunque, grazie a questo che abbiamo questi buoni film che tutti possono vedere al cinema, tanti polacchi vanno al cinema certo, insomma, a vedere questi film. Dunque, secondo me adesso abbiamo un buon momento pure per i spettatori. Perfetto, insomma, se ci sono prodotti di qualità il pubblico poi se ne accorge e si avvicina. Grazie davvero Paolina Benz da Varsavia per il tuo contributo. Ci ritroveremo sicuramente in onda in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Ciao, buon sabato, ciao. Ciao. Europost-it. In alto i boccali, parte l'Oktoberfest. Si apre oggi il più famoso e tradizionale festival legato al mondo della birra, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Una grande festa popolare all'insegna della birra, che raccoglie 6 milioni di visitatori ogni anno. C'è tempo fino al 4 ottobre per prendere un aereo e volare in Germania a gustarsi un piacevole boccale di birra. Per orientarsi e trovare informazioni sul festival c'è il sito in italiano, oktoberfest.it. E con questo invito ad andare all'Oktoberfest, insomma anche questa è cultura europea, vi salutiamo, finisce qui la puntata dell'Altra Europa e vi ricordo l'Altra Europa @radio24.it, se volete farvi vivi, se volete contattare la redazione, radio24.it è il sito da cui scaricare le puntate. Ringrazio Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto la puntata e Margherita Ina in redazione, Peter Bescapè alla parte tecnica, adesso il GR, poi arriva il Gastronauta. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao!